Arnaud Daniel, Arnaut Daniel. Lo ferm voler, quel cor mintra sextine. Lo ferm voler, quel cor mintra, non podges bex escui cendre ni ungla de l'ausengier, qui per maldir sarma. E car nullaus bat abram ni abverga, si vals a frau, lai un aura uncle, jausirai gioi en verge und in cambra. Cami souvent de la cambra, un amundan sai che nul som nun intra, ans me sun tuts plus che frari ni uncle, non hai membre d'un fremisca neis lungla, ai si cum fai l'enfas tenan la verga, tal paurai nul sia trop de l'arma. Del cor li fus, nu de l'arma, e cu sentis masselat in sa cambra, che plus mi nafra al col che corps de verga, car lusieu sers lai un ilies non intra. Tu stem serai ablieis cum cards et ungla, e nu creirai chastic d'amic ni d'uncli. Anc la serur de mon uncle non amei plus ni tan per aquest arma, caetan vesis cum est ludez de l'ungla, sa liei plagues vol glesser den sa cambra. De mi pot far l'amour scins el cor mintra, miels a sun vol com fors de frevul verga. Pois flori la seca verga ni den d'Adam mogro nebut ni uncle, tan fin amour cum se la quel cor mintra nun cuit fusanc en cors ni eis ed arma. Unci l'estei, fors en plas ud in cambra, mus cors nois par de lieis, tan cum ten l'ungla. Cae si sempren et senungla mus cors en lei, cum les cors en la verga, cil meste gioi turs e palaet se cambra, e nunam tant fraires pareni uncle, che in paradis daura duble gioi marma, si già nul homs per ben amar lai intra. Arnauts, trames a chansu d'ungle d'uncli, agra delieis che de sa verga l'arma, sun desirat, qui prezza in cambra intra.